Via dei Volsci 56 0085 Roma San Lollo. E quindi da poco abbiamo chiuso una lunga serie di iniziative di finanziamento. L'ultima è stata al 360, una serata di cumbia e ska. Continueremo ad andare in giro con il nostro banchetto. Non è detto che non facciamo un'altra iniziativa da qui alla pausa di agosto. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info, che potete usare per segnalarci le vostre iniziative, proporci le vostre autoproduzioni. Mentre se volete inviarci le vostre autoproduzioni in forma fisica, l'indirizzo è Via dei Volsci 56 00185 Roma. Sulle note dei Cinema Strange andiamo a ricordare invece un'iniziativa che c'è stata sabato scorso alle Aste Taurine, un complesso in disuso appunto dove venivano effettuate le aste di tori. Quindi c'è stata un'iniziativa di finanziamento per quella che dovrà essere una sala prove appunto in questa struttura. Il tutto organizzato da quel collettivo che prende il nome di Believers. Insomma, un bel gruppo di compagni e compagne che si muovono intorno alla zona di appunto a sud del lago di Bracciano, in Villara Sabazia e dintorni. Insomma, siamo rimasti colpiti insomma dall'atmosfera che si respirava appunto durante tutta l'iniziativa. Quindi massimo sostegno ai pischelli e alle pischelle che andranno ad animare e a realizzare la sala prova appunto alle Aste Taurine a Cesano. Dai, ed uno dei gruppi che suonava appunto al Believers Fest erano i Barbera Champagne. Quindi noi tributiamo della bella riuscita dell'iniziativa con i Barbera Champagne, e questa è Pirata. Yeah. sfumiamo questi ragazzuoli da Napoli, loro sono i Rapsters, per andare in onda con un compagno dalla Motor City. Ci sente? Pronto? Buonasera, un saluto a tutti e tutte le radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera. Benvenuto. Buonasera Dario. Sì, buonasera Mastello. Come sta? Tutto abbastanza male, quindi insomma nella norma. Nella norma, tutto a posto, niente in ordine. Esatto. Va bene. E niente, dopo questi buoni convenevoli, io niente, volevo ricordare un po' ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici un appuntamento che ci sarà qua nella Motor City, appunto a Torino, nella città da cui vi sto parlando. Per quanto riguarda questo 2 luglio, ovvero questo il prossimo sabato, in cui ci sarà un evento molto, molto particolare, perché unisce un po' diversi aspetti della città, dal fatto che comunque questo Hardcore City, Torino Hardcore City Fest antifascista unirà un po' dei contenuti particolari, e insieme a questi contenuti anche la musica prettamente di quella che è il rimasuglio di una scena torinese che piano piano però si sta cercando di rincoppattare, se possiamo così chiamarlo. Sarà un evento veramente completo, veramente complesso. Partirà tutto da zero, è partito dalla volontà di individualità e collettivi antifascisti delle varie zone di Torino. Ormai qua a Torino da un annetto a questa parte si sono formati nelle zone un po' più popolari dei collettivi antifascisti, ne cito alcuni, Lucento Vallette, che è la zona nord-ovest di Torino, San Salvario, che è diciamo, il quartiere un po' più centrale, e appunto Mirafiori. Infatti questo festival antifascista Benefit per questa cassa di lotte della Torino Antifa si svolgerà nel parco Colonnetti, un parco in via Artom a Mirafiori Sud, che è una delle zone più popolari, teatro poi negli anni scorsi, si parla degli anni 60, teatro di rivolte da parte degli operai, di scioperi, e soprattutto appunto si ricorda questo 3 luglio 1969, ovvero quella che viene chiamata la battaglia di Corso Traiano, dove appunto gli operai in sciopero generale della Fiat misero a ferro e fuoco tutta la parte sud di Torino. Si leggono nei libri, nei ricordi storici di chi c'era, barricate, scontri con la polizia. Perché? Perché fin dagli inizi degli anni 60 ai quartieri dormitori di questa città industriale che era Torino ospitavano i migranti che arrivavano dal sud per trovare un po' di fortuna e nel fare gli operai alla Fiat, però gli operai specializzati che erano comunque inquadrati nei quadri del PC vennero messi in discussione da quello che possiamo chiamare, diciamo, la base di quello che fu poi l'autonomia operaia. E quindi si ricorda il 3 luglio del 69 questa battaglia di Corso Traiano, che non è distantissimo, anzi molto vicina, dal Parco Colonnetti dove si svolgerà tutto quanto. Quindi partiremo il 2 luglio, questo sabato, con questo dibattito per tracciare una specie di percorso da appunto la fine degli anni 60 e le lotte operaie fino ad arrivare ai giorni nostri che vedono sempre di più una città che tutti ricordano come medaglia di resistenza, ormai le medaglie alla resistenza antifascista le appiccicano un po' ovunque così in tutta Italia. Comunque quest'anno abbiamo visto un'avanzata sempre più frequente di Casa Pound. Quest'anno addirittura c'era un candidato sindaco di Casa Pound, sembrava di stare a Roma, ma non, o comunque nel Lazio, ma non era così. E Casa Pound che attraverso il populismo cerca di infiltrarsi così nella tra gli stati sociali più poveri, quindi tra le persone che vivono questi quartieri popolari. E ci saranno appunto in questo incontro una serie di voci, di personaggi che hanno vissuto la periferia sud di Torino, in questo caso Mirafiori, da appunto gli anni 60 fino ad oggi, passando per gli anni 80 e così via. In questo momento, Dario, dovremmo avere pronto un pezzo. Chiedo alla regia, dovremmo avere pronto un pezzo. Sì, se non no. erro. No, intervieni pure. No. La prima parte di giornata te l'ho spiegata proprio tranquillamente. Appunto, Parco Colonnetti 2 luglio, questo Torino City Hardcore Antifa Fest che inizia alle ore 15 con questo dibattito, questo racconto di queste storie di quartieri popolari e in questo caso appunto di Mirafiori. Però insomma ero un po' curioso di andare a scoprire attraverso il tuo racconto come ci sei arrivati un po' a questa iniziativa. Nel senso, sì. Sì, dimmi. No. Vai. Non so, dalla nostra missione di Do It Yourself Invasion a quella che è stata Squat Around Town volume 2, insomma, la percezione che abbiamo avuto durante l'iniziativa è quello che comunque si riesce a coagulare di diverse entità che insomma vivono l'antagonismo di Torino, no? Sì, questa è un'iniziativa che non si è riusciti da soli. Allora, un'iniziativa nata appunto da appunto questi collettivi antifascisti dei vari quartieri per un bisogno di stare nei propri quartieri e comunicare determinate istanze per far capire, per stare a fianco alle persone che vivono nei quartieri popolari. Ci siamo ritrovati in questo anno comunque a conoscerci, ad aiutarci, perché ci sono state varie iniziative come Colazione al Mercato, c'è stata un'iniziativa nel mio quartiere che è Lucento Vallette, che è stata la settimana di mobilitazione antifascista contro sul ricordo del Foibe. Da lì abbiamo comunque sentito il caso di fare rete in modo che non ci fossero troppe strutture di mezzo, per stare più che altro in mezzo alle persone che vivono i quartieri tutti i giorni, nel senso per anche solo incontrare le persone ai mercati, riuscire a portare le nostre esperienze, la nostra visione diciamo dell'esistente a fianco a queste persone, per contrastare appunto un po' il populismo dilagante di certa gentaglia che qua inizia comunque ad alzare la testa, vuoi perché comunque le persone, e lo si è visto anche con il risultato delle elezioni, vuoi un po' perché le persone non ce la fanno più ad avere sempre diciamo la sinistra tra molte virgolette come governante, quindi per comunque rimanere, per far vedere che non esiste solo la visione dei partiti, non esiste solo la visione delle persone di destra che si infiltrano così nei quartieri popolari, abbiamo sentito la necessità di avere una rete che servirà prima di tutto per organizzazione di cose in strada, quindi slegati da posti occupati e altri tipi di strutture, strutture per stare appunto vicino alla gente e poi per continuare comunque a vigilare tra virgolette su quello che succede non solo a Torino ma in Italia per quanto riguarda il movimento antifascista. Per cui abbiamo pensato di fare questo grosso evento, diciamo, di conclusione un po' di questa di conclusione, ma che poi apre a tantissimi altri spiragli, altre cose, perché continuerà comunque la nascita della cassa di lotta antifascista torinese. Questo è il primo tassello e poi continuerà. È ovvio che siamo persone che comunque siamo in individualità, che comunque hanno le proprie seguono altre lotte, seguono tante altre cose, sono inserite, diciamo, nel tessuto del tra virgolette movimento torinese, per cui comunque questo evento è nato da noi, ma è reso possibile grazie, oltre ai gruppi che suonano, anche grazie a tutte le altre realtà di movimento, tipo Blackout, il Paso che sta comunque a Mirafiori, assolutamente, il Barocchio, il Mescal, insomma le persone più o meno che hai visto durante la TAS, e non solo quelle. A Torino sembra che ci sia più questa voglia comunque di uscire un po' dalle etichette, dai nomignoli, dalle proprie case occupate e fare molto più agire molto più insieme, e speriamo che questo sia un passo che unisca un po' le persone, soprattutto su un tema grande come può essere quello dell'antifascismo, ecco. No, ma anche, vabbè, mi ricollego insomma a quello che stai dicendo adesso, scegliendo un pezzo che è dei Mucopus, okay, che è né centro né sociale, e ricollegandomi appunto a quello che tu dici, no? Sì. Cioè, sia le varie iniziative che insomma hai raccontato che ci sono state a Torino, questa che ci sarà adesso, questo weekend, c'è un insomma si percepisce una voglia di rincontrarci per strada, sperimentare un nuovo modo di socialità, un rilanciarsi stimoli, insomma, no? Sì, si percepisce, ma anche perché comunque alla fine ci si conta, nel senso che poi alla fine il grande problema di far parte di un movimento, chiamiamolo un movimento antagonista per non far torto a nessuno, è anche quello che secondo me è sempre un po' una sinusoide, no? E quindi c'è il momento un po' più di stasi, il momento un po' più di vivacità. Noi qua a Torino, poi vabbè, io non sono tornato da tantissimo, però a Torino mi sembra che ora come ora ci sia parecchia grinta, non chissà che cosa, però chi si muove da anni su questi binari continua e si tenta di aggregare persone anche nuove, se vogliamo, o comunque si tenta di riuscire a collegarci un po', no? Anche questa rete, essendo una rete, non è fatta appunto per fare la nostra iniziativa buttata lì, è fatta per riunire un po' delle persone attorno a un tema importante, che è quello dell'antifascismo, attraverso anche momenti di socialità in un parco. Poi se ti devo aggiungere una cosa storica a cui tengo molto, il parco Colonnetti di Via Artom era il parco in cui i primi punk nell'82, se non erro, facevano i concerti punk hardcore, cioè Negazione, quei gruppi lì, cioè immagino Indigesti, Quinto Braccio, Contrazione, quei gruppi lì di zona e non, comunque l'Italia punks, ancora prima di El Paso, ancora prima mi sembra del cinema Diana, comunque si ritrovavano a suonare con a suonare e si ritrovavano al Parco Colonnetti. Ci sono delle immagini su YouTube, andatevela a cercare se siete amanti del punk anni 80, dove appunto si vedono questi gruppi suonare in quel posto lì. Non a caso infatti siamo nel 2016, la scena è cambiata, sono state tante piccole tra virgolette rivoluzioni, però ci siamo ancora, abbiamo deciso di far suonare gruppi hardcore. Poi vabbè, ci sarà anche una dancehall alla fine del concerto, una dancehall reggae organizzata dai Sound System torinesi, e quindi abbiamo cercato un po' di riportare un po' questa socialità, ma è anche giusto che si esca un po' dai soliti canoni, no? Del mainstream, delle cose fatte magari prettamente nei posti, si inizi magari un po' a stare di più appunto a contatto nei parchi, a viversi degli altri spazi che non siano le proprie quattro mura di un centro sociale, di uno squat o di casa propria anche, ecco. Allora, caro Mastello, io direi di passare un pezzo dopo queste chiacchiere iniziali, magari dopo ritorniamo proprio sulla scaletta dei gruppi che insomma andranno a formare la Torino Hardcore City Antifa Fest, ok? Va bene. Va bene, e allora Mucopus nel centro sociale. Eccoci qua, allora. In Mucopus sono un gruppo appunto degli anni 90. Io quando ero più giovane, ero più ragazzino, me li ricordo, sono un po' più vecchi, però sono quasi miei coetanei. Si sono riformati da poco, hanno fatto uscire questo CD che si chiama La Scatola, con vari cambi di formazione, però diciamo zoccolo duro loro rimangono. Sono molto legati ovviamente a, diciamo, al né centro né sociale di zona, cioè è vero, al Paggio Occupato a cui era dedicata questo pezzo. Centro sociale è, diciamo, casa occupata, squat, chiamatelo un po' come volete, perché il Paso è un po' una, diciamo, un'esperienza un po' diversa da tutte quelle che si vedono sia a Torino che negli altri posti d'Italia, e sta appunto a Mirafiori, tra Mirafiori Nord e Mirafiori Sud, quindi mi sembrava giusto così omaggiare questa casa occupata, e sembrava giusto anche il Mucopus, insomma. Tra l'altro i Mucopus li abbiamo visti allo scorso Rozfest, molto interessanti. Loro fanno questa cosa di fast core che è un po' che è un po' la caratteristica di alcuni gruppi di Torino a metà degli anni 90, insomma. Però insomma non mi hanno dato l'impressione di un gruppo revival. No. Non so, mi ha dato proprio l'impressione che stesse suonando un gruppo fresco con una proposta sonora molto attuale. Perché sono vecchi, ma poi dentro sono giovani, insomma. E comunque loro saranno uno dei 11 gruppi. Senti, 11 a proposito di vecchi e giovani, certo, vabbè, non... Senti, no, sì, no, no, che... Vabbè, sì, dicevo, a proposito di vecchi e giovani, come è formata la scaletta? C'è una mistura tra vecchia scuola e nuove leve? Ma nel senso che poi alla fine degli anni 90 sono rimasti i Mucopus, i Plastic Nation fecero uscire il loro primo LP nel 99, però esistevano anche un po' prima, e gli altri che suoneranno, quindi gli altri nove gruppi, sono tutte persone, meno male, da un certo punto di vista, comunque, che hanno iniziato ad affacciarsi al giro punk hardcore, diciamo, dai primi anni del 2000. Poi ovviamente qua a Torino ultimamente lo street punk, l'oi, diciamo, la musica, quella che proviene dalla cultura skinhead, la fa da padrona, ma ormai dagli anni, appunto, dai primi anni 2000 diciamo che a livello musicale si è un po' la parte punk hardcore tipica si è un po', diciamo, nascosta ed è uscito molto più prepotente, e meno male, se posso dirlo, la parte quella un po' più oi, un po' più skinhead. Quindi ci saranno anche Bull Brigade, gli Scontro, che tornano live dopo un bel po' di tempo, vengono a suonare solo giustamente perché è una giornata più che altro antifascista, perché comunque alla fine questi gruppi a loro modo, in qualche modo, comunque hanno ancora delle cose da dire. Poi ci sono nuovi gruppi, ma con personaggi vecchi, tipo Via Luminosa, piuttosto che i Flick Dent La Tête, che raccolgono al proprio interno pezzi di Memento Mori, Confusione e Mary Poppins, e poi appunto ci sono le nuove leve, tipo i Pretesto, il Rifiuto HC, anche i Rancore, se vogliamo, ma anche se i Rancore comunque hanno dato un po' di tempo che suonano. Insomma, è una bella commissione di persone e personaggi che comunque dopo anni si sono ritrovate e continuano comunque ad avere anche loro all'interno dei loro gruppi comunque dei rapporti. Lasciamo perdere il trittico Gavroche, Bull Brigade, Scontro, che è sempre quello, perché le persone sono sempre quelle, però per il resto comunque c'è comunque uno scambio di anche se vogliamo di vedute, di relazioni tra questi nuovi gruppi che piano piano nascono. Ci sono ad esempio gli ieri sono un gruppo nuovo, ma che suona secondo me come i gruppi che piacevano a me negli anni 90, insomma. È un po' una continuazione, se vogliamo, che inizia a non zoppicare più, ma inizia a dire vabbè, ci siamo anche noi, ci sarebbero anche altri gruppi che non suonano quel sabato pomeriggio sera, però diciamo che comunque è un buon punto di partenza per tutte le cose, sia per il livello politico che per il livello musicale, ed essendo fatto magari in un contesto, passami il termine, popolare, perché non è che noi non facciamo le cose nei contesti non popolari, però in un parco magari è anche una buona occasione per chi così ha sentito parlare della scena Torino Hardcore di venire a vedere che cosa c'è di nuovo, una parte di quello che c'è di nuovo, insomma. Per me è una buona cosa per riuscirsi ad avvicinare a questo tipo di attitudine. Ovviamente la musica traina poi tutto il resto, insomma. Lo è stato anche per me quando ero ragazzino nel 92. La musica comunque ha trainato poi tutto il contesto in cui questa musica nasce, ecco. Allora, io prenderei un'altra pausa musicale, poi ci ricolleghiamo proprio a queste ultime parole, appunto all'attitudine che è oltre la musica. E il pezzo che sembra a caso, ma forse non lo è degli Scontro, Torino Hardcore. Che non parte, però. Che non parte. Allora, state lì, noi ci riproviamo, eh? Va bene, abbiamo recuperato. Vabbè, il problema era puramente tecnico. Allora, ci siamo. Scontro, Torino Hardcore. Hardcore punk! Hardcore punk! La prima 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allora, Mastello. Eccoci. Ci sei, sì, sempre lì. Allora, no, appunto, prima di passare gli scontro, stavi appunto parlando di attitudine hardcore. E cosa significa? Cosa significa attitudine hardcore? Nel senso, credo ci sia sempre bisogno, anche se poi lo ripetiamo spesso da questi microfoni, quando ci incontriamo tra di noi, diamo per scontato che questa modalità di fare iniziative, di stare insieme, sia una cosa, insomma, scontata. Invece credo ci sia sempre necessità, insomma, di comunicare quello che è questa attitudine, no? Ma sì, boh, poi io con gli anni sono arrivato alla conclusione che poi ognuno se la vive un po' come gli pare. Partendo da questo, diciamo, da questo principio, penso che l'attitudine, per quanto mi riguarda, è appunto riuscire a fare delle cose come questa che ci sarà sabato, che appunto è organizzata non solo dai gruppi, ma appunto da questa rete antifascista, ma da chiunque voglia poi partecipare attivamente alla cosa, perché comunque stiamo parlando di un parco dove non c'è niente. Ecco, per me l'attitudine di questi, dove non c'è niente se non l'erba, ovviamente, è un campo da calcio, perché poi ci sarà anche il torneo di calciotto dove ci saranno ricchi premi, però immaginatevi un prato fiorito, anche perché in questo periodo fa caldo pure qui, fiorito, dove non c'è niente, e noi andiamo a costruire varie iniziative con appunto palchi, bar, cucine, chi più ne ha più ne metta, serigrafie anche, e chi più ne ha più ne metta. E in questi giorni ci stavo pensando, in mezzo alle mille telefonate, di essere arrivato qua, di fare ancora le cose così, perché per me comunque alla fine lo spirito, l'attitudine punk hardcore, poi sono queste cose qua, sono queste cose di comunque riuscire a costruire questi eventi che non siano solo eventi appunto come quelli social network o gli eventi delle multinazionali dello spettacolo, ma siano eventi in cui ognuno di noi ci mette del proprio, e da lì si costruisce un qualcosa per arrivare a, magari arriveremo a fine serata e poi saremo soddisfatti. Quella soddisfazione poi alla fine è un po' la propria attitudine personale, no? Il fatto di comunque aver costruito una cosa insieme ad altre persone che magari non sono come te, ma non perché siano brutte o cose di questo genere, ma perché magari sono delle individualità, e quindi ognuno avrà sentirà delle proprie esigenze, no? Legate a questa giornata, riuscire ad arrivare tutti insieme a fare un qualcosa partendo da zero. E questa è un po', diciamo, la similitudine legata alla giornata, ma legata a quello che è il mio pensiero di punk hardcore. Che poi questo pensiero di punk hardcore abbia qualcosa di politico, quello sicuramente è una marcia in più. Per me non potrebbe mai esistere nulla di musicale che non abbia qualcosa dietro. È ovvio che stiamo parlando del 2016. Prima parlavamo del Parco Colonnetti nell'82, dove c'era una negazione e compagnia bella. Le cose sono cambiate, io non ne ho ovviamente vissute tutte, ci mancherebbe, però ognuno se la vive come se la sente. Non mi sentirei mai di fare delle regole su tu sei punk, tu sei tizio, tu sei caio, tu sei pezzentronio. Ognuno se la vive così, ed è bello che comunque nel 2016 non ci siano solo dei posti al chiuso dove fare queste cose, non ci siano solo dei concerti, ma ci siano delle persone che si mettono, che si tirano sulle maniche e costruiscono questi eventi da zero, partendo appunto da un prato fiorito, ad arrivare a contestualizzare quello spazio e a riempirlo anche di una musica che sì, seppur rumorosa, ha qualcosa dietro, no? E quel qualcosa dietro comunque è infarcito dall'essere già lì a suonare, oppure è infarcito da quello che c'è scritto su un testo, da quello che ti comunica un riff di chitarra, insomma. Ma per me è sempre stato così. Ma anche perché altrimenti poi tolto quello che tu hai detto, si va semplicemente a ricadere, insomma, in una replica di quello che è la creazione di un evento tra virgolette commerciale, no? Con il gruppo di richiamo, dove tutto tende a chiamare il più gente possibile. Diventa un po' la copia di un meccanismo che poi contestiamo, no? Assolutamente, no, ad esempio io sono sempre più convinto, ad esempio, che non, cioè, nel senso, nel costruire la scaletta e degli orari dei gruppi che suoneranno sabato, i gruppi la sanno, ma ho espressamente chiesto a chiunque di non dirla, di non spandere, di non diffonderla in giro, perché poi succede, come capita anche nei posti occupati, per carità, che succede, certo, che il gruppo che ha più passami i termini, tiro, perché magari sono bravi a suonare, non per altro, perché comunque anche se, cioè, perché sono bravi a suonare e dicono cose intelligenti, e allora la gente si segna l'ora e arriva solo per l'ora. Questa è una giornata che inizia dal pomeriggio con un dibattito molto molto interessante, poi ci sta l'anonima coristi che fa canti di lotta molto bella, da pelle d'oca, canti di lotta anarchici e non solo, è un coro che arriva da Pinerolo legato al progetto Alpi Libere, e poi si inizia con il concerto, c'è il torneo di appunto calcio a 8, sono i banchetti di distribuzione, cioè ridurre tutto quanto al mero concerto non è mai giusto, no? Cioè non è solo quello, le persone dovrebbero essere già un po' a entrare un po' nella mentalità, ed è questo poi alla fine contro cui ci battiamo, no? La mentalità di riportarle un po' al viversi la socialità, non solo legata alla musica, ma legata a quello che ci sta attorno, che poi è quello, sì, che tentiamo rimanga nelle persone poi a fine nottata, insomma. Sì, insomma, se vuoi anche sfuggire dal tranello, dalla gabbia della fruizione, e invece rendere vivo e coltivare quello che è la condivisione, no? Sì, io credo che molte volte, anche quando si va a questi a queste iniziative, le persone vedono magari dei gruppi che gli piacciono, però essendo che la persona che suona su un palco rappresenta un qualcuno che sta su un palco, poi non si riesca neanche a socializzare, vuoi un po', perché magari qualcuno è timido e ci sta, però non si riesca mai a creare anche un po', sai, quei rapporti che ad esempio quando ero ragazzino io esistevano, no? Ah, minchia, l'ho visto suonare, che bello, cioè da lì poi partivano tante storie, no? E anche quello un po', cioè ormai la gente vede la persona che suona su un palco o vicino a delle casse, quando i palchi non ci sono, come qualcuno di inarrivabile, anche se non c'è un palco, anche se è tutto su un piano unico. E quello, cioè, sarebbe già solo un passo importante, no? Far arrivare delle persone a conoscere le persone che suonano, e non la musica, le persone che suonano, insomma. Va bene. Senti, allora io ho preparato un altro pezzo, magari te lo faccio introdurre a te. Loro sono, li hai nominati prima, sono i Via Luminosa. Chi sono, sì, chi sono i Via Luminosa? Ecco, nei Via Luminosa suonano un po' di gentaglia diciamo gli anziani. Questa sera è tutta una cosa anagrafica. Gli anziani un po' dei gruppi passati degli anni 80, ci canta, vabbè, un grande personaggio dal cortolinese degli anni 90, ovvero Gigio, Arturo, COV, Toto Zingaro, tantissimi altri progetti che tengono viva un po' la Motor City, e si sente un po' l'eco, così l'eco degli anni che furono, che poi vabbè, io a parte gli omaggi che ci sono stati negli anni a El Paso dei Nero Orgasmo, però si sente un po' questa scia appunto dei Nero Orgasmo, come poi si sente anche nei Pasti Nation, che è un altro gruppo con personaggi storici che suoneranno anche loro sabato. E Via Luminosa però non esistono da tantissimo e quindi sono tra virgolette in qualche modo una novità. Va bene, allora ci ascoltiamo la quarta traccia da questo lavoro dei Via Luminosa, che è Indelebile. Tu rimani lì, ci sentiamo dopo. Ce la riscontriamo da capo, che stava venendo un mix. Allora, da capo, Via Luminosa. Ed eccoci di ritorno dai Vie Luminosa. Allora, Mastello, andiamo un po' a chiudere questa presentazione della Torino Hardcore City Antifa Fest. Sì, appunto, facciamo un ricapitolo di tutte queste belle chiacchiere che abbiamo fatto assieme. Sabato 2 luglio, ovvero il prossimo sabato, dalle ore 15 al Parco Colonnetti di Via Arton, Mirafiori Sud, quartiere popolare della Motor City, ovvero di Torino. Si inizierà alle 15 con un dibattito sulle trasformazioni sociali, una sorta di percorso storico fatto di testimonianze dirette di quelle che sono state le trasformazioni nel quartiere di Mirafiori, quartiere appunto popolare, in cui questo 3 luglio 1969 ci fu questa battaglia di Corso Traiano, e poi dal pomeriggio Anonima Coristi, canti anarchici e di lotta da Pinerolo, e poi via col punk hardcore, ovvero Muco Puz, Plastination, Via Luminosa, Bull Brigade, No Fly Zone, Rifiuto Hardcore, Freak Dance Latette, Scontro, Pretesto, Rancore. Ieri si sono aggiunti anche all'ultimo gli FJM, che è un progetto blues garage che gira già da un annetto, e poi in contemporanea col concerto questo torneo di calcio a 8, il tutto condito da bar, cucina, banchetti, proiezioni, anche un'area per i bimbi. Potete venire anche a campeggiare già dal venerdì sera, dal venerdì 1 luglio, ovvero da domani, e poi dopo il concerto di Punk Hardcore ci sarà la Dancehall Conference con quattro campioni della dancehall torinese, ma non solo, ovvero Madoka Crew, Makinda, High Five, United Roots e compagnia danzante. Il tutto quanto è un benefit per la cassa di lotte Torino Antifa, questa rete che unisce un po' i quartieri in cui si sono ritrovati da un anno, possiamo dire così, a questa parte, individualità e non, e che puntano appunto a creare una rete antirazzista, antifascista e solidale. Per cui per benefit ovviamente l'ingresso non si paga, essendo un concerto in un parco, però così l'appello è quello di sostenere questa cassa, questa neonata cassa, attraverso appunto il bar, la cucina e tutte le altre iniziative che ci saranno nella giornata al Parco Colonnetti. Allora, io in chiusura mi volevo ricollegare a come dire, una ricorrenza che c'è in questo 2016 qua a Roma. Insomma, siamo a 10 anni dalla ricorrenza di quello che è stato l'assassinio di Renato Biagetti. Sono passati 10 anni e insomma da qualche mese è partita una campagna intitolata Io non dimentico, che è andata un po' ad attraversare tutte le iniziative nei vari spazi occupati. C'è stato un momento insomma della campagna anche durante l'Onda Rossa Festa in quella della SNIA. Insomma, mi volevo ricollegare al senso che è quello dell'iniziativa che state facendo voi a Torino. Insomma, c'è sempre l'esigenza e la necessità di ricordare quello che è l'antifascismo in un clima insomma dove giovani e meno giovani si disinteressano della politica e dell'antifascismo soprattutto. È necessario. Sì, assolutamente necessario, oltre che ricordare purtroppo i compagni e le compagne scomparsi negli anni sotto per mano dei fascisti nelle situazioni più assurde, perché poi Renato stava andando via da una dancehall sul litorale laziale, ma sarebbero da ricordare veramente tante altre persone. Una parentesi numerica, stavo leggendo prima della trasmissione dei dati che insomma vengono da un dossier che appunto dice che dal 2005 ad oggi ci sono state più di 400 aggressioni a stampo fascista. Certo, bisogna sempre stare allerta. Questa è una cosa che sinceramente, avendo fatto che anche da parte mia, avendo fatto comunque, avendo vissuto sia a Roma che a Torino, ed essendo poi tornato a Torino e avendo la vista comunque una città diversa, è una cosa che a me ad esempio personalmente sta molto a cuore, per fare in modo di evitare che diciamo queste analisi e questi dati aumentino, e per far capire anche che appunto si può combattere l'ignoranza fascista non solo facendo contropresidi alle loro iniziative, ma assolutamente essendo noi a portare le nostre istanze nei quartieri popolari, insomma. Benissimo. Va bene Mastello, allora io ti ringrazio. Un'ultima nota, insomma, cioè, c'è una concomitanza con... Eh sì, io infatti questa cosa un po' mi prende male, perché l'anno scorso mi sono divertito tantissimo, quindi posso farlo io un saluto, certo, ai compagni, alle campagne, agli amici e alle amiche che in questo momento, stasera non so dove siano, comunque sono, credo al T20, questa sera al T28 ai transiti, e quindi ecco che sono così spalmate sul territorio milanese, perché ieri sono iniziate le 5 giornate di Milano, seconda edizione, e io mi ricorderò per sempre, rimarrà nei miei cuori l'anno scorso quando ho partecipato all'ultimo delle 5 giornate, che anche quest'anno sarà in Via Gola, tra Fottenza Fest in Via Gola. Sì, è una cosa che me la sono ritrovata un po' tra capo e collo, insomma, però non è stata fatta apposta, ci mancherebbe, anzi mi dispiace non rivedere vecchi personaggi milanesi e non solo, perché poi a differenza dell'evento dell'iniziativa torinese, quella delle 5 giornate milanesi è una cosa veramente che riguarda tutta Italia, e quindi coinvolge parecchi amici, amiche e parecchie generazioni. Parecchie generazioni che poi tra l'altro conosciamo benissimo, sia io che te, e vabbè, prossimo anno capiremo il da farsi, ci manderemo dei piccioni viaggiatori per coordinarci, insomma. Va bene, allora caro Mastello, grazie insomma di essere intervenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa. È stato un piacere, come al solito. Vi saluto te, Dario, saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici di Do It Yourself Invasion. Ci si rivede o sabato qua a Torino, se avete voglia, se no in giro, siamo sempre qua, insomma. Va bene Mastello, un abbraccione. Ciao. Poi tornaci a raccontare com'è andata, eh? Sicuramente farò un report dei miei, quelli benissimo. 5 secondi, è andato tutto bene, fighissimo, ciao. Eh sì, ti conosciamo per questo. Va bene. Va bene, un abbraccio ancora. Ciao. insomma l'abbiamo citata questa iniziativa al secondo capitolo anche quest'anno. E quindi le 5 giornate Do It Yourself di Milano. 5 giorni, 5 concerti in 5 posti per gli spazi occupati di Milano e per le strade di Milano. Insomma, così a ribadire l'importanza dell'autogestione. E per una socialità costruttiva. E noi passiamo un pezzo da un gruppo che suona questa sera in una delle 5 giornate. Appunto, l'abbiamo detto prima, al COA T28. E con l'occasione salutiamo anche i compagni che ci ascoltano da Bologna. Perché loro vengono da Bologna, sono i Contatto e questa è la loro Le Vostre Guerre. Niente, non ce la facciamo questa sera. Allora, magari con più convinzione e maggiore impegno. Loro sono in Contatto, buon ascolto. E questo è un altro gruppo che suonerà stasera al T28. Loro sono i Motron da Varese, visti a Roma recentemente. Dai, è forte Motron. Yeah. 22 e 21, rimanete all'ascolto perché tra pochi minuti va in onda un'altra nuova puntata di Apostasia. Giovedì prossimo andremo a sentire uno dei compagni o delle compagne, non lo sappiamo ancora. Insomma, stanno realizzando le 5 giornate Do It Yourself di Milano, quindi ci faremo raccontare un po' come sta andando. Noi ricordiamo un appuntamento di questo sabato 2 luglio. Un'iniziativa di finanziamento per lo spazio delle cagne sciolte. Terrazza grassosa, favolosa, pelosa. Sabato 2 luglio dalle ore 18, con l'inaugurazione del terrazzo. Del terrazzo, appunto, delle cagne sciolte. E quindi con il tango oltre il genere, a cura di Tango Femme. E di live di Basaglia Grazie e Amy Christie and the Bad Sisters. A seguire aperitivo cena vegan. Quindi l'appuntamento a giovedì prossimo dalle ore 21 alle ore 22. Quindi grazie per l'ascolto, il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro si trovano privati della loro libertà personale. Un abbraccio e vi lasciamo con Amy Christie and the Bad Sisters. Uomini, om, con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme de terre, e donne, femme, patate con piedi, pomme de terre avec le pied, uomini con piedi con patate, om, avec le pied, avec e donne, patate con piedi, pomme de terre avec le pied, uomini con piedi con patate, om, avec le pied, avec e donne patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini, om, con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme de terre, e donne, femme, patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme, donne patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme, e donne patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini con uomini, avec om, donne con donne, femme avec femme, e piedi, e pied, con patate, avec le pomme de terre. Uomini con piedi con patate, donne patate con piedi. Uomini con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme de terre. E donne patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini, om, con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme de terre. Donne, femme, patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme de terre. Patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini con piedi con patate, avec le pied, avec le pomme de terre. Patate con piedi. Uomini con uomini, avec om, donne con donne, femme avec femme, patate pomme de terre con piedi, avec le pied.